later, than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago non riescono ancora a spiegarsi come mai si trovino lì. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, riassumendo, noi ci siamo persi ormai da quanto tempo? Ma che ora è? Mezzanotte. E allora ci siamo persi appena adesso. Come adesso? Drago, ci siamo persi a mezzanotte, adesso è mezzanotte, non è mai stato giorno, non è mai stato un altro giorno, quindi ci siamo persi adesso. Noi ci siamo persi nella nebbia, abbiamo quasi fatto un frontale con un camion, ti ricordi? Sì. Eravamo in autostrada. Sì. Poi abbiamo seguito un pollo. Sì. Poi siamo finiti qui nella fabbrica di polli. E qua non abbiamo ancora visto un essere umano. Sono solo polli. Qualche pollo parlante, riassumendo, qualche pollo invece normale. Sì. Tanti polli normali. Eppure una presenza umana ci deve essere in questo luogo così complesso, così organizzato. Aspetta un attimo. Vedi? Questa voce. Una presenza tedesca, perché questa voce è sicuramente tedesca. La fabbrica di polli vi dà il benvenuto, ma per favore non fate domande, non parlo con giornalisti. Ma no, ma noi non siamo giornalisti, infatti stavamo dicendo che ci siamo persi e non sappiamo bene dove siamo. Dove siamo? Siete nella fabbrica di polli, io sono l'amministratore delegato della fabbrica di polli. Ovvio. Vabbè, allora se è l'amministratore delegato, siamo a posto. È importante, ci ascolti perché ci devi aiutare. No, nessuna domanda, sono inintervistabile. Intervistabile. Temo intercettazione. Ma cosa vuol dire poi che lei è l'amministratore delegato? Perché non sarà mica un furbettino. Non gli do del lei perché. Ti sembra una lei? Sì, capisco che forse è divertente la domanda, sì, non so, però. Non è affatto divertente questa domanda. Sono l'amministratore delegato di questo posto, anche se in realtà sono il presidente di una società controllata da un castello di altre società. Insomma, una scatola cinese, chiaro? La fabbrica di polli. Andare in Francia per Natale, per 3 giorni o poco più. Nuove facce sul giornale e dell'Italia nulla più. Saltare con slancio il recinto è ancora possibile. E uscir dalla gabbia con rabbia è ancora possibile. You are the cattle and we are the keepers. Una volta sono entrato in un consiglio di amministrazione. Non era un consiglio di amministrazione, era un direttivo. Che differenza c'è? Che nel direttivo si stabilisce che cosa si fa l'ora dopo. Nel consiglio di amministrazione si stabilisce che cosa si fa l'ora prima. Se dovevo venire qui a fare una lezione di economia me lo dovevate dire. Dovevate dirglielo. Il primo argomento, erste Übung, non in ordine del giorno, il cosiddetto fuori sacco, attenzione, era fino a che ora dobbiamo tenere accesi i cellulari? Non si è deciso. Il mio cellulare e quello dei miei colleghi sono rimasti sempre accesi. Tanto è vero che sono stati sostituiti dopo 2 mesi perché si sono rotti. Perché a furia di stare accesi si sono rotti. E le batterie non funzionavano più. 2 ore di consiglio e purtroppo c'erano pareri discordanti. Chi diceva alle 21.30, chi diceva alle 21.50. Alcuni dicevano sì, però se c'è una manifestazione, insomma, l'Arena di Verona, Festival Bar, come facciamo? Dobbiamo tenerli accesi almeno fino a mezzanotte e 20. Mezzanotte e 25. Com'è andata? Ha cantato bene? Ha stonato? Era in playback. Insider Trading. Finalmente! If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Volevo sapere, siccome noi potremmo... Scusa, aspetta, perché c'è un po' di confusione. No, ecco, dimmi, adesso ti sento. Ecco, senta, volevo sapere, siccome noi stiamo per passare, sì. Volevo sapere se c'era per caso l'arabo. Pane arabo? Ah, no, no, di voi qua non c'è nessuno. No, io c'era l'arabo. Allora, il pane arabo c'è, arabo persona no. Inside the training. In the middle of nowhere. Aspetta, perché è un problema di fiato. Aviaria. Ma smettila. No, no, è aviaria. Sempre lì a pensare all'aviaria solo perché siamo in mezzo ai polli. Insomma, mi sembra l'ambiente più adatto, Drago. E comunque, o è aviaria o è viral marketing. Cos'è? O è aviaria o è viral marketing. Marketing infettivo, il sogno di ogni pubblicitario. Marketing infettivo? Idee così buone che creano un'epidemia consumistica. Ah, è tipo, fantastico. Tipo i Big Bubble nel 78. Sì, tipo i Big Bubble nel 78. Le BR rapivano e ammazzavano Moro e noi impazzivamo per i Big Bubble. Eravamo giovani. Poi il viral marketing approfitta dei momenti negativi della società proprio per creare la sua infezione benefica. Perché benefica, scusa? Perché se aumenti i consumi mi fai ripartire l'economia, no? Vabbè, fai ripartire l'economia sulla base di cose. Big Bubble si è poi scoperto che li facevano con il grasso di topo e sono crollate le vendite, quindi... Ma quanto costa allevare, ingrassare e uccidere topi per ricavarne il grasso necessario a fare delle gomme da masticare? Prova a pensarci. Non è possibile, è antieconomico. Non so, però anche concentrare tutti gli ebrei in un lager e ucciderli era antieconomico. Ma prova a negare l'olocausto su queste basi, vedi cosa ti succede. Chiedi a David Irving. No, chiediglielo tu. Chiedo io. Viral marketing. Anche l'olocausto è stato viral marketing. Sì. E anche il tuo raffreddore. Sì. Anzi, la tua aviaria. Sì. Ma che ora è? It's midnight. C'è stata una riunione ieri. Importantissima. Una riunione di associazione. E abbiamo deciso delle cose fondamentali. Sono venuti tutti. C'eravamo tutti. Abbiamo parlato. Siamo stati in riunione 5 ore, sono arrivate le pizzette, ci siamo interrotti per una mezz'ora, abbiamo mangiato, abbiamo ripreso il discorso che avevamo interrotto prima che arrivassero le pizzette, abbiamo deciso, per cui dopo tre quarti d'ora è arrivato il presidente, lo abbiamo aggiornato per bene su tutto quello che si era discusso e lui era contento, per cui direi che la riunione è andata veramente bene. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce, non nuoce quasi. La fabbrica di polli.